B. Il marito di Cristina. 1. Ascolta il dialogo. Ecco fatto. Andiamo. Sbrighiamoci. Avevi ragione tu. È un po' tardi. Dimmi, come si chiama il marito della tua amica? Chi? Il marito di Cristina. Andiamo a teatro con loro, no? Certo. Il marito di Cristina si chiama Giacomo. Giacomo Raimondi? Sì. Lo conosci? Se lo conosco. È insopportabile. Perché? Raccontami. Non lo so, non c'è un motivo. Lavora nello stesso ufficio di mio fratello e qualche volta gioca a tennis nel nostro club. Sia al lavoro che al circolo non lo sopporta nessuno. Non dirlo, Cristina, non dirglielo, mi raccomando. Allora, fammi capire, perché è antipatico? Forse perché vince tutte le partite? No, che sciocchezza. Non so spiegarti il motivo, ma non importa, per una sera non è un problema. Ah, e per una settimana? Che cosa vuoi dire? Cristina e io vorremmo andare al mare insieme quest'anno. Ne abbiamo parlato tempo fa. Che ne pensi? Sì, è una buona idea. Andate solo voi due amiche. Una vacanza senza mariti. No, non ti lascio da solo. Non avere paura. Sì, buona. Le vacanze con Giacomo Raimondi. No, abbi pietà. Esagerato. A me sembra così gentile. Comunque, se non ti va di passare le vacanze con Giacomo, non fa niente. Non parliamone più. Fermiamoci qui. Guarda, si sta liberando un posto.